l'altra Europa. Li chiamano i campioni della ricerca, sono 7.000 in Europa, 7.000 scienziati, 7.000 persone, 7.000 uomini e donne che con passione, con impegno, con follia, con abnegazione hanno abbracciato la scienza e lo hanno fatto grazie anche a un finanziamento che si chiama IRSI, finanziamento del Consiglio Europeo della Ricerca, che compie 10 anni, 10 anni in cui ha cambiato delle vite, vite che poi hanno cambiato, stanno cambiando, cambieranno la nostra quotidianità. Tutto questo oggi lo celebriamo qui all'Università di Padova, siamo nell'aula Nievo perché Padova e la sua università è un sistema, è un luogo dove c'è tanta Europa, dove c'è tanta ricerca, dove c'è tanta contaminazione culturale, dove l'IRSI è di casa. Benvenuti a tutti in questa puntata live, io sono Federico Tadia, questa è l'altra Europa e al mio fianco c'è Marcella Bonchio, prorettora ricerca scientifica al coordinamento della commissione scientifica di Ateneo, a cui ho chiesto oggi di essere co-conduttrice con me. Ciao Marcella. Ah, ciao Federico, buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui e di festeggiare insieme con tutti voi questa settimana dedicata all'IRC, all'European Research Council. Per noi è una grande opportunità, è una grande opportunità per l'Italia, per tutto il mondo accademico e quindi noi diciamo abbiamo invitato i nostri ricercatori a essere presenti e a partecipare anche a questa trasmissione e li incontreremo più tardi insieme. Eh sì, racconteremo storie, l'IRSI è un qualcosa che cambia la vita di una persona, cambia la vita di un team, cambia la vita di un luogo. Stiamo parlando di finanziamenti ingenti, stiamo parlando di da un milione a 2,5 milioni di euro a progetto che dura 5 anni, un progetto che deve essere molto ambizioso, interdisciplinare, costruito veramente sulle fondamenta della ricerca di base, ma che poi è anche l'ambizione di guardare poi a un impatto sociale, quindi è un'occasione unica ed è un'occasione che sicuramente cambia la vita della ricerca, non solo del ricercatore che vince il grant, ma del suo staff e del dipartimento che lo ospita e della nostra università. Lavoro, sogni, passione, ma anche sbattimento, sacrificio, soddisfazioni sono alcune delle tematiche tradotte in musica da un cantautore che oggi abbiamo il piacere di avere qua con noi. L'abbiamo vista X Factor, l'abbiamo vista al 1° maggio, si chiama Santino Cardamone. Partiamo con la sua musica per andare in Europa. Andiamo ad Amsterdam. Vai. Sì. La la la la la ri ra ri ra ri ra la la la la la la la la la la la la vidi un giorno in quel prato davanti lo studentato, il suo corpo ballava, suonava e cantava l'amor. Il nostro dolce comunicare non era affatto il linguaggio verbale, il nostro era semplicemente il linguaggio d'amor. Questa città è una follia, quell'odor di marijuana e i capelli di una puttana, con la bontà di Marilena che fa lo sconto a chi le fa pena. Ma poi sei arrivata tu e non ci ho visto più, il mio cuore ha fatto boom boom boom boom boom boom boom boom boom, tupidi tupidi tu. Amsterdam, yeah, Amsterdam, con te più bella ancora la città, con te più bella ancora la città, con te più bella ancora la città. Tu piti tu piti tu piti tu piti tu piti tu piti tu piti tu piti tu piti tu piti tu piti tu piti tu piti tu piti. Grazie Santino Cardamone, un applauso visto che è stato svegliato all'alba da Ancona, devi riservare un concerto, vero? Sì, sì, 2 ore di sonno. Okay. Starà con noi, abbiamo con noi il magnifico rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto. Ci diamo del tuo oggi in questa puntata, ciao Rosario. Ciao Federico. L'università rende più bella una città? Sì, poi questa città è abituata ad avere un'università che la rende bella. Siamo qua da quasi 800 anni e università e città si mescolano, gli studenti, i ricercatori, i cittadini si incontrano quotidianamente. Una città di 200.000 abitanti, un'università di 60.000 studenti. L'IRSI per te è una storia personale ed è una storia da rettore, perché ti trovi a coordinare questo sistema. Perché siamo a Padova oggi e cosa ha voluto dire per te nella tua carriera, nella tua vita personale, l'IRC? Per me l'IRC è stato un grande riconoscimento scientifico, perché ottenere un IRC è estremamente difficile, e un grande impulso alla ricerca, perché come diceva Marcella è stato un finanziamento di 2,5 milioni di euro che ti permette di esplorare nuove traiettorie della tua ricerca, di reclutare giovani, di innovare i campi più fecondi della ricerca scientifica. Per me è stato questo, quindi è stato un successo, un successo lavorativo. Diventando rettore mi è piaciuto pensare che diventasse il paradigma dell'università, che quindi l'università ambisse a fare in Italia quello che le università fanno in giro per il mondo, cioè competere per averne più possibile, per averne più possibile. E Padova ha una grandezza particolare, credo, che è un'università che ha tutti i saperi dentro, e allora l'ambizione è non solo di avere DRC, ma avere DRC in tutti gli ambiti del sapere, dalle scienze umane, le scienze cosiddette dure, la chimica, la fisica, le scienze della vita, la medicina, la biologia, stimolare i nostri ricercatori a competere e vincerli, ma anche fare un po' di campagna acquisti, cercare di portare a Padova quelli che l'hanno vinto altrove e vogliamo portare in Italia. Un po' il controfuga dei cervelli, cioè anziché la fuga noi cerchiamo di portarli via i cervelli, di portarli. Il risultato è stato incredibile, devo dire, perché Padova ha oggi 27 vincitori di progetti IRC. Professori e ricercatori di Padova sono 2000 in tutto, quindi stiamo parlando di circa l'1,5% tutti i professori ricercatori di Padova hanno un grant IRC. E questo è un bellissimo numero. Se poi andiamo a guardare dentro, ci sono tutti i saperi che abbiamo detto. Ci sono i fisici, i chimici, gli ingegneri, i medici. E questo, secondo me, è un motivo di orgoglio per l'università. Però, come per l'individuo, anche per l'università è un motivo di spinta. Perché significa avere tante nuove idee che si incrociano, tante nuove competenze, tante nuove tecnologie che possono lavorare assieme. E quando un finanziamento IRC finisce, finisce un progetto, finisce un percorso, finisce un sogno, cosa succede? Certamente, visto il livello di finanziamento della ricerca in Italia, diciamo che uno fa un salto a un livello più basso di finanziamento. Allora l'ambizione è ottenerne un altro, quindi competere con una nuova idea innovativa. L'IRC ti chiede di finanziare non la ricerca, ma un salto nella ricerca. Quindi tu devi metterci non la tua attività normale, quella che stai facendo bene, ma una nuova idea che possa aprire un nuovo sviluppo, un nuovo filone. Che vuol dire che non è automatico, che devi essere in grado di capitalizzare tutto quello che hai imparato, che hai fatto, e sviluppare un nuovo progetto innovativo. È chiaro che quando riesci a fare quello, fai di nuovo il salto in alto, quindi passi dal livello di finanziamento normale di nuovo sulla Ferrari e si riparte. Rifai il pieno e via. Ci fermiamo un attimo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta dall'Università di Padova con l'Altra Europa per dire buon compleanno ricerca. L'Altra Europa, eccoci qua ancora in diretta dall'Università di Padova. Marcella, facci fare un viaggio tra gli IRC qui padovani, ti vedo con schemi, numeri, appunti, dal foglio Excel allo schizzo a matita. Ma in realtà li conosco tutti personalmente, perché diciamo è veramente un lavoro che cresce e continua, insomma, quando uno inizia con un IRC grant e dopo, come ha detto il nostro magnifico rettore, non è più finita, perché diventi veramente un motore propulsore del gruppo, ma non solo, ma proprio insomma della vita dell'università. E noi siamo fortunati perché appunto abbiamo questi progetti IRC veramente diffusi in tutti gli ambiti della nostra ricerca. Abbiamo 14 progetti che riguardano le scienze di fisiche e ingegneristiche, 9 progetti nelle scienze della vita e 4 progetti nelle scienze umane, quindi siamo molto contenti di ciò. Fabrizio Nestola, professore ordinario, Dipartimento di Geoscienze, Università di Padova. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. avevi 16 euro per la tua ricerca, giusto? Confermo. Quindi era forse in monete a quel punto. Ero arrivato a 16 euro e ricordo che la mia segretaria mi disse anche: beh, dai, per la pizza una birra va bene, bastano. Ecco, diciamo, è arrivato a quel livello, sì. E a quel punto uno si trova con 16 euro e cosa fa? E niente, a quel punto ovviamente io, tra l'altro, arrivavo da un'esperienza all'estero abbastanza lunga e devo dire che Padova in realtà mi aveva già dato molto, però Padova può fino a un certo punto, no? Solo con le sue armi, diciamo. E quindi arrivi a un certo punto che ci provi, ma ecco, sia chiaro, quando, almeno questo vale per me, il giorno che sottomisi il progetto europeo, ma mai, poi mai pensavo di vincerlo, cioè, una roba che non, tutti quei soldi, ma cos'è, non li vincerai mai. E poi è successo invece questa cosa strana. È successo. Tu tra l'altro ti occupi di diamanti? Sono dei minerali per me. Prendi le distanze subito. Sassolini. Sì. Sassolini. Un minerale per sempre, questa è la tua. Non nel mio laboratorio, ne spacco uno ogni tre giorni. No, sì, studio diamanti. In realtà non è che io proprio studi diamanti, io studio quello che c'è dentro i diamanti. Quindi per me i diamanti sono semplicemente un taxi, sì, che dalla terra profonda porta su oggetti. Ok, quindi poi io cosa faccio? Studio la roba che è dentro i diamanti. Perché il diamante senza niente dentro, mi spiace per le donne, per me non vale niente. In realtà quelli che costano di più sono quelli che non hanno niente dentro. Sono puri. Sono quelli puri, esatto. Sì, sì. Sei un visionario? Oh, santo, sì. Sì, sì, sì, assolutamente. Io dico sempre, io non sono un grande scienziato. Io ho solo delle idee folli. E queste idee, secondo me, evidentemente anche non secondo me, funzionano. Quindi, come dicevano il rettore Labonchio, indubbiamente quando finisce un progetto c'è poco da fare, ce l'abbiamo dentro, secondo me. Noi sicuramente applicheremo per altri progetti, perché se vuoi fare ricerca veramente, esplorare nuovi mondi, c'è poco da fare. L'Enterprise, no? Ci vogliono purtroppo anche i soldi, non basta l'idea, non basta il cervello, non basta la gente che lavora con te, ma ci vogliono anche dei mezzi tecnologici di un certo tipo, almeno nel mio settore. Io, grazie al progetto europeo, ho potuto comprare uno strumento che ancora oggi è un prototipo a livello mondiale, e questo mi permette, facciamo il contrario, no? Con gli Stati Uniti, sono loro che vengono qua da noi a fare gli esperimenti, quindi questo, insomma, ti fa capire, e non basta, dobbiamo andare ancora oltre, ecco. Magari ci prendiamo un anno di pausa, possiamo, rettore, un anno di pausa? Non credo. Lo sapevo io. Questo è abuso del servizio radiofonico. Rizzotto, allora, al ricercatore viene chiesto di essere, appunto, visionare, un po' folle, avere intuizioni, vedere oltre. Tutto ciò poi come si traduce in burocratese? Cioè, come si riesce a trasferire, chiamiamola follia, anche se avete capito, no, il senso che do a questa parola, poi in un'applicazione, quindi in parole che devono arrivare a Bruxelles, essere comprese, essere tradotte, essere interpretate ed essere valutate. Questa è una delle parti più difficili, perché ed è una parte sulla quale con il prorettore stiamo lavorando molto, perché scrivere un progetto europeo è difficilissimo. Non è un progetto, è un volume che mandi con dentro tantissime informazioni che devono servire ad altri scienziati per valutare il progetto, e quindi devi sapere avere e selezionare dei dati già ottenuti che confermino che quello è un buon progetto, ma poi devi anche saperlo scrivere in maniera stringata, accattivante, lucida, con un percorso per cui chi leggerà non il tuo progetto ma decine di progetti possa essere catturato. Quindi tu ci devi mettere il contenuto innovativo, come dice Fabrizio, l'innovazione, che è un po' pazzia, perché devi riuscire a guardare lontano e dire: non fare la cosa scontata. La cosa scontata non è grande scienza, la grande scienza è cambiare, la grande scienza è avere il cambiamento conoscitivo, quello che non ti aspetti. Quello che ti aspetti non è né eccitante, non lo faremo per quello, ma neanche particolarmente utile. Quindi devi sapere guardare, ma questo poi deve diventare una cosa pratica, una cosa che chi giudica e dice, beh, non è che si è svegliato la mattina e mi racconta una storia totalmente irrealizzabile. Questa è un'idea innovativa, giustificata sulla base di alcuni dati che ha e spiegata nel dettaglio. Beh, questa è un'impresa. Come dicevi giustamente, questa è un'impresa. Noi abbiamo da quest'anno attivato dei progetti, tutti nostri, dell'Università di Padova, per insegnare a scrivere questi progetti. Quindi chiunque all'Università di Padova può scrivere questo progetto, che è fatto, non possiamo dare i 2,5 milioni di euro. Non ancora. Però daremo comunque un finanziamento di circa 100.000 euro, che per noi sono tanti, e soprattutto l'avremmo fatto con un modello che è identico con il quale poi loro competeranno per la gara grande, insomma, per la gara difficile. Lo consideriamo una palestra di allenamento, infatti, ed è proprio questo che ci proponiamo. Santino Cardamone, strazzato, chitarra in mano, ci sono temi che portano un po' anche al tuo vissuto di migrante, o il tuo vissuto che hai raccontato in musica, vero? Sì, diciamo che racconto storie di vita quotidiana soprattutto. E questa mobilità che l'hai tradotta nella cantata, la ballata del migrante? Il ballo dell'emigrante. Il ballo dell'emigrante. Siamo pronti, vai. Senti questa musica che batte forte dentro, come un aquilone vola via dove va il vento. Balla questa musica, balla finché c'è. Chiudi gli occhi e prova a immaginare anche la luna ballare con te. Chi va a Genova, chi va a Torino, chi va a Bologna, chi va a Milano, c'è un emigrante sempre in cammino che vede la sua terra andare lontano. Leonardo Sciascia lo diceva, sappiamo bene che già c'era, è una questione meridionale che rimane sempre una vaga leggenda nera. Dan dan dan dan. Balla, balla, balla, questo è il ballo dell'emigrante. Urla fortemente, terra mia, stai nella mia mente. Canta, canta, canta, questo è il canto dell'uomo piangente. Urla fortemente alla tua terra dolcemente. Lei ha paura di perdere. Grazie Santino. Un pezzettino, sì, infatti le ho chiesto di versione radiofonica delle sue ballate. Andiamo a Napoli. Con noi c'è Gaetano Manfredi, rettore dell'Università di Napoli Federico II e presidente della CRUI. Marcella, ricordiamo cos'è la CRUI? La Conferenza delle Università Italiane, quindi è il nostro coordinatore, insomma, di tutte le università. Lui avrà una visione certamente più ampia, più globale, ed è anche, diciamo, il nostro portavoce per quanto riguarda le esigenze della comunità accademica al Ministero della Ricerca. Buongiorno Manfredi, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. A tutti e ai colleghi che sono lì. È complicato essere portavoce di, immagino, esigenze, istanze, richieste anche molto diverse tra di loro. Sì, complicato ma anche stimolante, perché in fondo ci sono delle esigenze di base che sono comuni al sistema universitario, che sono la qualità, la competitività, le opportunità per i nostri giovani e i nostri talenti. E poi chiaramente ci sono delle condizioni al contorno che sono molto diverse, perché l'Italia è molto diversa, ma alla fine, se i valori centrali sono dei valori condivisi, diciamo, gli obiettivi sono comuni. Un'esperienza come quella di IRC è una bombola d'ossigeno per il sistema universitario? Ma sì, è una bombola di ossigeno per vari motivi, perché da un lato introduce, e questo lo hanno sperimentato varie università italiane, Padova sicuramente è un esempio, ma ci sono esperienze in molti atenei, e rappresenta il caso delle grandi opportunità per il talento, per la ricerca di frontiera, per un mercato della ricerca che sia un mercato libero, aperto, dove la competizione sia il fattore fondamentale. È chiaro che, diciamo, proprio l'esperienza degli IRC mette in evidenza quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza del nostro sistema, perché il punto di forza è il talento dei nostri ragazzi, la qualità delle nostre università, la forza delle nostre idee, e questo lo testimoniano i numeri, perché l'Italia, i ricercatori italiani vincono molti grant a livello europeo, a livello globale. Però ci sono anche i numeri che invece ci fanno vedere quali sono i nostri punti di debolezza: la grande burocrazia, la difficoltà di avere gli stessi livelli di flessibilità che hanno altri paesi, e la mancanza di incentivi che aiutano ad attrarre. E questo è testimoniato dal fatto che, benché ci siano molti italiani che vincano, alcuni scelgono sei università straniere, e abbiamo difficoltà ad attrarre ricercatori stranieri in Italia, perché chiaramente non sono abituati ai nostri tempi, ai nostri vincoli, alle nostre burocrazie. Ma c'è anche un problema di comunicazione, per esempio, sia verso l'esterno, quindi far capire ai cittadini quello che succede all'interno di un ateneo, e forse anche difficoltà tra università per sapersi raccontare. Ma io credo che l'Italia in questo stia un po' indietro, anche se sta facendo dei passi in avanti, cioè vede ancora l'università come il luogo dove si fa lezione, dove si acquisisce il titolo di studio, non quello che è l'università veramente, l'università oggi, che è un grande motore di sviluppo, è il fattore determinante della crescita economica, è il luogo dove si costruiscono le idee che ci fanno vivere meglio e che creano opportunità per le nostre imprese. E questo è un tema culturale generale. Noi cerchiamo un po' di farci raccontare meglio, e in questo dobbiamo sicuramente migliorare, ma devo dire anche i media ci debbono aiutare molto, e credo che l'iniziativa di oggi, anche la trasmissione che lei sta conducendo, ci aiuta molto, perché debbono portare avanti una narrazione dell'università che è un po' diversa rispetto a quella che normalmente viene fatta, e che aiuta i cittadini a capire meglio qual è il valore della nostra ricerca, il valore dei nostri giovani, e le opportunità, le capacità, i talenti che debbono essere messi in campo e che sono in campo per poter far crescere il nostro paese. Marcella, tu ai tuoi ricercatori chiedi di essere anche bravi divulgatori? Ma noi abbiamo anche proprio una struttura che ci insegna come essere bravi divulgatori, quindi facciamo anche corsi in realtà, perché è importante saper esprimersi e soprattutto riuscire a comunicare la passione che c'è in questo lavoro, che è il lavoro più bello del mondo, quasi non è un lavoro, no? Non so che cosa ne pensa il nostro presidente della CRUI su questo punto. Questo non è proprio sentito come un lavoro, ma come una missione. Di volta, perché io credo che chi comincia a fare ricerca lo fa perché ha una grandissima passione, perché poi devo dire è il mestiere più bello del mondo, poter fare quello che scoprire, capire, cercare di fare un passo avanti all'umanità. E solamente questa grandissima passione fa superare le grandi difficoltà, i grandi ostacoli, le grandi delusioni, perché poi fare ricerca di frontiera significa rischiare tanto, perché non è che si riesce a raggiungere un risultato al primo colpo, bisogna superare delusioni, fallimenti, è una grandissima sfida, un po' come i grandi esploratori che avevano questo sogno di trovare un posto in cui non c'era mai arrivato nessuno prima nella storia dell'uomo. E quindi questa grandissima passione deve essere preservata, perché è un lavoro, è un valore molto grande, non è un lavoro, e quindi a volte quando ci sono le piccole frustrazioni quotidiane, i piccoli problemi, le banalità che incidono poi sul raggiungimento dei risultati, soprattutto quando poi si confronta quello che succede in Italia con quello che succede in altri paesi europei, alla fine a volte prevale un po' di scoramento. Ecco, io penso che il lavoro che tutti noi dobbiamo fare è quello di rafforzare la passione, rafforzare il talento, perché senza questi due ingredienti non si arriva a nessuna parte. Grazie davvero Gaetano Manfredi, rettore dell'Università di Napoli Federico II, presidente CRUI. Buon lavoro anche a lei. Noi ci fermiamo, un attimo di pubblicità, poi ancora qua in diretta dall'Università di Padova con l'Altra Europa. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, siamo sempre a Padova, Aula Nievo, qui all'università per festeggiare i 10 anni di ERSIL, Consiglio Europeo della Ricerca. Stiamo ascoltando storie, stiamo ascoltando esperienze, stiamo anche ascoltando musica, con noi il rettore Rosario Rizzuto, Marcella Bonchio, prorettore della ricerca scientifica. Marcella, vi danno mai dei poveri fessi come ricercatori? No, cioè, succede a volte, o di sentirsi un po' fessi, no? È una dimensione che ci ha spiazzato. Qualche volta ci sentiamo forse così un po' messi da parte, ecco, questa forse è, diciamo, la sensazione, quando noi invece vorremmo essere completamente dentro, no? Coinvolti, appunto, lavorare insieme, fare la differenza, e qualche volta ci sentiamo poco usati in questo senso. Ok, quindi non la dedichiamo a voi questa cantata di un povero fesso live qui all'Altra Europa con Santino Cardamone. Lasciatemi parlare, perché cantare non so cantare. E sì, perché modestamente sono un eccellente stonatore. Io sono come i poeti, vivo solo di illusioni. Sono sempre in mezzo ai prati, in cerca di emozioni. E lo stornello del vino bello per noi seduti ai tavoli di un bar. E lo stornello del vino bello per noi che stiamo fino all'alba a cantare. Ma io non mi lamento, mi accontento, brindo e canto. Brindo ai miei nemici e brindo agli uomini infelici. Sono un tipo strano io, brindo pure a una patata e brindo alle ragazze che non me l'hanno mai. Questa la vediamo, e lo stornello del vino bello per noi seduti ai tavoli di un bar. E lo stornello del vino bello per noi che stiamo fino all'alba a cantare. Santino Cardamone. Tra l'altro sappiamo che, insomma, no, il ricercatore poi esce dal laboratorio, poi c'è sempre anche il ritrovo al bar. Cioè, forse le migliori intuizioni nascono alla mensa, vero? Cioè, sono leggende metropolitane. La macchinetta del caffè. Ok, perfetto. E questo, vedi, sono indicazioni. Radio Bue, colonna sonora dell'Università di Padova, è grande protagonista di questa giornata dedicata agli ERSI. Con noi c'è una delle voci, una delle colonne di questa web radio, Pietro Osti. Ciao Pietro. Ciao Federico, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Oggi invadete la città. Oggi la giornata si chiama Ricerca, storie di scienziati in piazza, quindi ci permettiamo un po' il lusso di farci vedere un po', perché sai, la radio, oggi siamo qui un po' tra virgolette nascosti nell'Aula Nievo, che è bellissima, e invece andremo in piazza con tre postazioni dove inviteremo e racconteremo ancora storie di ricercatori. Radio2.it si fanno sempre in maniera un po' più leggera, rispetto meno accademica, ecco, però abbiamo visto che è una cosa che funziona, che si sta bene, si conoscono tante cose, e poi gli studenti che ascoltano dicono: ah cacchio, ma allora si può fare veramente questa cosa? E penso che sia interessante scoprire che cose gigantesche poi possono essere raccontate in maniera tranquilla, bella, divertente. Una sorta di pellegrinaggio, quindi oggi per la città ci sarà la possibilità di incontrare, intervistare, connettersi con, quindi, questi ricercatori. Poi uno spettacolo finale alle 18.30 con Paolo Migone, che col suo occhio nero cercherà di capire cosa ha ricercato, cosa ha scoperto anche lui, sicuramente tante cose. Perfetto, grazie Pietro. E a proposito di storie, Marcella, ci ha raggiunto Elisabetta Collini, professore associato confermato Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova. Ciao Elisabetta. Ciao, buongiorno a tutti. Ve la presento io se volete, perché io e Elisabetta ci vediamo in Dipartimento, sì, spesso davanti alla macchina del caffè, quindi non solo, no? Perché Elisabetta è chimica come me e Elisabetta torna nel Dipartimento di Chimica dopo 2 anni di attività postdottorato a Toronto e torna con un bellissimo progetto, un progetto che ha a che fare con la luce, anzi con il percorso che fa la luce. Elisabetta, ci dici? Sì, io mi occupo in particolare di cercare aspetti della meccanica quantistica nel trasferimento di energia. Ora avrà fatto svenire metà degli ascoltatori probabilmente, però mi piace far notare che non è una ricerca completamente astratta, completamente decontestualizzata, ma è diciamo, i processi di trasferimento di energia sono alla base della nostra vita. La fotosintesi parte con il trasferimento di energia, gli schermi dei nostri telefonini hanno dei trasferimenti di energia, il fotovoltaico si basa su questo. Quindi chiaramente, insomma, nonostante sembri una ricerca un po' così molto astratta, in realtà è ben calata, insomma, nella vita e nelle applicazioni, no, quotidiane. Quando ti chiedono che lavoro fai, rispondi questo? No, io dico solo sono un chimico, basta. Cioè, cerchi la sintesi, appunto. Cerco la sintesi, sì, la semplicità, sì. Elisabetta, IRC anche a te ha cambiato la vita? Certo, io in particolare l'ho preso molto giovane. Io all'epoca ero un ricercatore, diciamo, senza un contratto fisso, quindi ero un assegnista. Ora sono professore associato a distanza di 4 anni, quindi chiaramente la mia carriera è notevolmente cambiata, insomma. Inoltre non avevo un gruppo, Fabrizio aveva 16 euro per fare ricerca, io manco quelli avevo, io li chiedevo in prestito ai miei supervisori, no? Quindi chiaramente, insomma, sono la mia carriera, insomma, la possibilità di farmi un gruppo, no? Di gestire un gruppo, di gestire la mia strumentazione, è stato chiaramente un salto di qualità inimmaginabile, ecco, prima di avere questo finanziamento. Migliaia di storie raccontate in questa IRC Week. Ci colleghiamo con Bruxelles, con noi c'è Massimo Gaudina, responsabile della comunicazione del Consiglio Europeo della Ricerca. Ciao Massimo, benvenuto all'Altra Europa, ben ritrovato. Ciao Federico, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, stiamo raccontando l'IRC visto dal locale, visto da un'importante università, da un'importante città come Padova. L'IRC invece vista da Bruxelles, che cos'è? Beh, è una delle più belle storie di successo dell'Unione Europea di questi anni, perché ha, come avete dimostrato voi, come state dicendo voi, ha veramente rivoluzionato lo scenario e il panorama della ricerca in tutti i paesi europei. È un programma che è nato 10 anni fa e che, come avete già detto, in soli 10 anni ha già finanziato 7.000 campioni della ricerca, frenando il fenomeno della fuga dei cervelli. Anche di questo avete parlato, ci sono molti europei che con le nostre borse sono tornati in Europa oppure sono rimasti in Europa piuttosto che partire verso gli Stati Uniti o altri paesi, quindi c'è stato un impatto anche su questo fenomeno. C'è un impatto sulle carriere dei giovani ricercatori che con un IRC hanno veramente la strada spianata per il loro avvenire. In Italia questo avviene anche per legge, perché esiste una regola per la quale chi vince un IRC può diventare professore con un canale privilegiato di carriera, quindi c'è un impatto su molti livelli. E poi un dato forse più spettacolare degli altri: in questi 10 anni 100.000 articoli su pubblicazioni scientifiche citano progetti IRC, e grazie a questi 100.000 articoli l'Europa l'anno scorso ha superato gli Stati Uniti in termini di produzione scientifica. Quindi questo è un dato che dimostra quanto la scienza europea abbia beneficiato di tutto questo e poi di quanto la società abbia beneficiato, perché poi parliamo di scoperte che hanno molto spesso delle ricadute molto interessanti in termini medici, in termini di materiali, in termini di qualità della vita, quindi parliamo veramente di progresso e di qualità della vita per gli europei. Massimo, vedendo questi 10 anni non tanto come traguardo raggiunto, ma come punto di partenza, cosa ci aspetta? Cosa potrebbe migliorare? Diciamo che si dice sempre che una squadra che vince non si cambia, e anche un programma che funziona bene non si cambia, per cui riuscire a mantenere la stessa filosofia, lo stesso metodo, la stessa struttura servirà sicuramente a continuare a produrre successi. Ci vorrebbe forse un budget rafforzato, perché nei nostri bandi riusciamo a finanziare ogni anno quasi 1000 ricercatori adesso, ma ce ne sono molti che hanno livelli altissimi, livelli di eccellenza, ma non ci sono fondi per tutti gli eccellenti. In alcuni casi i paesi ci mettono i loro fondi, ma non sempre, e quindi forse un bilancio rafforzato, un maggiore equilibrio di genere, mi viene da dire, perché sappiamo bene che le donne ricercatrici sono la minoranza in Europa, e questo si riflette anche nei nostri bandi. Quindi cerchiamo sempre di promuovere donne ricercatrici, perché ci sono delle storie di successo molto, molto interessanti, e ne avete appena presentata una, per esempio. E direi che queste sono le sfide principali: mantenere la stessa filosofia e soprattutto farsi conoscere dal grande pubblico. Questa forse è la sfida più grossa, perché l'Europa, l'ERC è molto ben conosciuto ed apprezzato negli ambienti accademici e scientifici, però al grande pubblico non ancora. Quindi iniziative come questa settimana dell'ERC avevano proprio questo obiettivo: uscire dai circoli accademici, farci conoscere dai media, farci conoscere dalla cittadinanza. Gli eventi di Padova, anche eventi che si sono svolti questa settimana in tutta Europa, anche a Genova, anche a Torino, anche al Tate Gallery di Londra, per esempio, nei musei della scienza, ci sono stati degli eventi molto interessanti che presentavano i progetti europei ai cittadini. Questa forse è la nuova frontiera: farci conoscere di più, far capire ai cittadini che l'Europa investe nella scienza, investe nel futuro del continente, e che quindi deve essere vista come una parte della soluzione e non come una parte dei problemi che abbiamo di fronte oggi. Grazie Massimo Gaudina, responsabile della comunicazione del Consiglio Europeo della Ricerca. Buon lavoro Massimo. Grazie a voi e buon proseguimento con questa bellissima giornata a Padova. Grazie, noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta l'altra Europa. Eccoci qua, ancora a Padova, ancora a Ulanievo, ancora IRC. Marcella, stavate facendo dei conti insieme al rettore. Sì, stavamo cercando di capire quante donne abbiamo fra i vincitori di IRC a Padova, e abbiamo visto che appunto arriviamo al 25% nella distribuzione dei nostri grant, che quindi siamo molto vicini all'obiettivo del 30% che si prefigge l'Europa. Di questo siamo solo contenti. Un'altra storia, un'altra donna, un'altra scienziata, Antonella Viola, professore ordinario Dipartimento di Scienze Biomediche. Ciao Antonella. Ciao, buongiorno a tutti. E la tua storia l'abbiamo raccontata anche all'Altra Europa, sei stata anche testimonial lo scorso anno di U-Factor, che è stata questa campagna promossa dalla Commissione Europea proprio per avvicinare le ragazze e i ragazzi agli studi scientifici. Tu non solo hai vinto un IRC, ma adesso valuti gli IRC, valuti gli altri progetti, gli altri bandi, vero? Sì, infatti è un'esperienza bellissima, estremamente stimolante, divertente, perché sei veramente sulla linea, no? Sulla prima linea nella valutazione della ricerca. Adesso appunto io ho vinto un IRC diversi anni fa, e che mi ha cambiato decisamente la vita, e adesso sono in Commissione Europea a Bruxelles, dove valuto quelli un po' più giovani di me, i consolidator, ed è un'esperienza fantastica perché leggi dei progetti incredibili. Ti dispiace sempre un po' perché vorresti finanziarli tutti, o almeno una gran parte, invece i soldi non sono mai abbastanza, ma è davvero molto molto bello e stimolante, quindi davvero l'IRC è un programma fantastico. Perché immagino che più delle volte l'eccellenza viene finanziata, ma chi non viene finanziato sono comunque progetti... Sono comunque bravissimi, senz'altro, perché già passare la prima fase, perché l'IRC Consolidator ha due fasi, a differenza di quello che appunto... cioè, in realtà ce l'hanno tutti le due fasi, qui abbiamo anche l'intervista dei candidati nel Consolidator, e quindi già superare la prima fase è una cosa incredibile. Poi nella seconda dobbiamo comunque tagliare un po', ma è veramente un peccato. Sarebbe bene che poi intervenissero appunto gli enti non nazionali a supporto di questi progetti che sono comunque eccellenti. Antonella, cosa vuol dire poi avere un proprio... Scusami. Noi abbiamo cercato di fare una piccola cosa. Chi ha fatto l'intero percorso, quindi ha passato la prima fase, alla seconda fase è stato giudicato da finanziare, ma i soldi non bastano, sì. L'università gli dà una wild card, quindi gli dà una versione molto ridotta del finanziamento, per dire: abbiamo molto apprezzato che tu hai fatto la gara, sei arrivato al fotofinish e ti hanno detto: guarda, la medaglia non te la possiamo dare perché ci sono finite le medaglie. Insomma, è sempre nell'ottica di comunque incentivare le eccellenze. Antonio, proprio una risposta sintetica, ma cosa significa poi avere un team da coordinare, che è uno degli elementi, credo, più belli, più interessanti, più innovativi di questo progetto? Non viene premiata la persona, o meglio, viene premiata la persona, ma viene premiata anche la squadra che questa persona saprà crearsi. Beh, sì, vuol dire un gran lavoro di, prima di tutto, essere un punto di riferimento per i giovani, no? E poi di cercare di motivarli, e questa è la parte forse più bella, stimolarli, far crescere, far sbocciare il talento, un altro degli aspetti più belli del nostro lavoro, forse il più bello. E quindi significa alla fine doversi relazionare con il meglio della nostra società. Siamo dei privilegiati. Abbiamo proprio un minuto di tempo, ma con piacere ci colleghiamo con Gianfranco Pacchioni, prorettore alla ricerca dell'Università di Milano Bicocca, quindi il tuo, sì, tuo collega, vero Marcello? Collega, sì, ci sentiamo spesso anche. Sì. Buongiorno Pacchioni. Buongiorno a tutti. Si sente un privilegiato anche lei? Ma privilegiato, intanto congratulazioni per questo evento che avete organizzato e che sicuramente rende merito a 10 anni di lavoro per, diciamo, rendere questo programma dell'IRC un programma che si è radicato fortemente in Europa, e speriamo che dia anche dei frutti in Italia, dove, come sapete, diciamo, appunto, i risultati sono meno brillanti di quello che potremmo aspettarci, però di fatto abbiamo avuto tantissimi giovani, tantissime persone che ne hanno beneficiato, e quindi è un grande impulso alla ricerca fondamentale. Abbiamo parlato di incontro, di contaminazione, di collaborazione tra dipartimenti, tra team, tra scienziati, ma ovviamente anche tra università. Credo che incentivi anche proprio le connessioni tra gli atenei, l'IRC. Ma la ricerca di eccellenza non ha frontiere di nessun tipo, non ci sono muri di nessun genere, e diciamo i contatti si stabiliscono là dove le persone hanno degli interessi in comune e sanno portarli avanti a livello di eccellenza. Ovviamente noi come l'Università di Padova siamo interessatissimi, appunto, a portare avanti programmi di questo tipo, e abbiamo anche delle collaborazioni dirette con Padova e anche delle idee molto interessanti da sviluppare. Quindi cerchiamo di mettere a sistema in modo sinergico le nostre competenze e anche i nostri ricercatori più brillanti. Grazie Pacchioni, buon lavoro. Grazie a voi, tutto il buona suo giornata. Team. Andiamo a chiudere questa puntata, la giornata però continua nel pomeriggio, Year City, questa ricerca che appunto invadrà le strade di Padova. Un grazie a chi è stato con noi oggi, a chi si è alternato, a chi si è messo in gioco, che è poi quello che fa il ricercatore quotidianamente. Rosario, in quanto rettore, vuoi fare un saluto finale? Come chiude di solito? c'è una benedizione, non credo. No, chiude brevemente con la soddisfazione e la gratitudine per aver presentato oggi il mondo della ricerca e la volontà delle università di essere competitive, di essere io credo che a volte come sistema della ricerca italiano ci sottovalutiamo, pensiamo di essere meno bravi di quello che siamo, ogni tanto, sempre con modestia, perché non bisogna accontentarsi mai, però avere anche il coraggio di dire che siamo competitivi, che anche nel programma più competitivo che l'Unione Europea, che è l'IRC, siamo capaci e forti, fa bene. Grazie a Marcella Bonchio, un grazie a Santino Cardamone, chiudiamo ancora con le sue note, lo potete ritrovare su Facebook, lì c'è tutto il calendario del suo tour. Torniamo ad Amsterdam e chiudiamo così, in allegria. La la la la la ri la ri la ri ra la la la la la la la la la la la la la la la la la la vidi un giorno in quel prato davanti lo studentato, il suo corpo ballava, suonava e cantava l'amor. Il nostro dolce comunicare non era affatto un linguaggio verbale, il nostro era semplicemente il linguaggio d'amor. Oschio, questa città è una follia, quell'odor di marijuana e i capelli di una puttana. Con la bontà di su queste note chiudiamo la puntata, l'appuntamento con l'Altra Europa, come sempre, a sabato prossimo. Ancora grazie da Federico Taddia, ciao. L'Altra Europa. collaborazione con Euronet Plus.